voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Buongiorno, signore. No, mi hanno appena sparato sopra, il suo collega. Scusi, la prossima volta faccio con lei. Iniziata la seconda parte di Eclettica di quest'oggi in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, come tutti i giorni fra le 19 e le 20, altrimenti disponibile in podcasting, dove il momento lì lo scegliete voi. Tutte le spiegazioni per il podcasting alternativamente o su www.radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica. E colgo anche il momento per darvi l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è utile sia per dialogare direttamente ma anche per iscrivervi alla lista nera, che vi permette di ricevere la playlist settimana per settimana. Si è aperto con il nuovo di Rufus Wainwright, penso che molti abbiano riconosciuto la sua voce, Rules and Regulation, e si prosegue con un estratto diverso rispetto a quelli che fino ad ora sono stati oggetto di attenzione all'interno di Eclettica dalla nuova prova di James Lavelle, ovvero sia Uncle. Di solito ci ascoltavamo Josh Homme, ogni tanto ci siamo ascoltati anche il singolo ufficiale, ma non più di tanto, quello con Ian Astbury ex Cult. Ora Uncle assieme agli Autolux. Questa è Nine Persons and Machinery. We'll be right back. 10 giugno. Ho passato la giornata a fare esercitazioni. Come siamo prodigiosamente cambiati. Da una banda di malconci guerriglieri, ora siamo un esercito di duri. Questa mattina Hernandez ed io ci siamo allenati ad usare i macete, gli affilati coltelli per tagliare la canna da zucchero. E per un eccesso di zelo del mio commilitone ho scoperto di avere il sangue del gruppo zero. La cosa peggiore qui è l'attesa. Arturo possiede una chitarra ma sa suonare soltanto Selito Lindo e mentre in principio agli uomini piaceva ascoltarlo, ora glielo richiedono sempre più di rado. Ho cercato di preparare l'iguana in un modo nuovo e penso che agli uomini sia piaciuto, malgrado abbia notato che alcuni masticavano con forza e buttavano indietro la testa per inghiottirlo. Oggi ho sentito ancora Vargas. Lui e suo fratello discutevano i piani da attuare dopo la conquista della capitale. Mi chiedo quale ruolo intenda riservarmi quando terminerà la rivoluzione. Ho fiducia che la mia fiera lealtà, che può essere solo definita canina, avrà la sua ricompensa. 1 luglio. Quest'oggi una squadra dei nostri uomini migliori ha fatto incursione al villaggio, alla ricerca di cibo, sfruttando l'occasione per sperimentare molte delle tattiche che abbiamo messo a punto. La maggior parte dei ribelli si è esibita brillantemente e malgrado il nostro gruppo sia stato massacrato, Vargas la considera una vittoria morale. Quelli di noi che non hanno partecipato all'azione sono rimasti seduti intorno all'accampamento, mentre Arturo ci ha favorito con il suo Selito Lindo. Il morale resta alto, malgrado il cibo e le armi siano pressoché inesistenti e il tempo passi lentamente. Fortunatamente abbiamo la distrazione del caldo a 40 gradi, che a parer mio è la causa principale di tutto quel buffo gorgoglio che fanno i nostri uomini. Verrà anche la nostra ora. Questo era ancora Viva Vargas, da Saperla Lunga di Woody Allen. Myself. A 10 anni da OK Computer è uscita questa compilation OKX, o 10 in caratteri romani, che ricorda appunto l'opera dei Radiohead ed è disponibile per il download gratuito via internet. Karma Police è il brano che ci stiamo ascoltando in eclettica, la voce è quella di John Vanderslice e si rimane negli Stati Uniti, perché dagli Stati Uniti proviene John Vanderslice, spostandoci però dalla costa ovest alla costa est, a New York City per la precisione, da dove proviene la band Oh Death, che negli ultimi mesi di tanto in tanto è comparsa all'interno delle playlist di Eclettica. Loro definiscono Gothic Country Punk il genere che li caratterizza, e il disco che noi avevamo utilizzato ai tempi era un disco di importazione. Ora nel mese di luglio la City Slang, in date diverse, ha deciso di stamparlo anche in vari paesi europei, quindi potreste trovarlo ad un costo inferiore. O Death, che di solito ci ascoltavamo con il brano dal titolo Adelita, ma che quest'oggi voglio farvi ascoltare con una scelta di tipo diverso. E poi ci sono sempre le playlist a fare da riferimento per trovare i titoli esatti delle canzoni. Down a

Oggi la giornata è stata abbastanza bella, malgrado il fatto che siamo caduti in un'imboscata tesaci dagli uomini di Arroyo, che ci ha alquanto decimati. Ciò è stato parzialmente per colpa mia, perché ho indicato inavvertitamente la nostra posizione, mettendomi a invocare con eccessiva petulanza le tre persone della Santissima Trinità, quando una tarantola si è inerpicata sulla mia gamba. Per parecchi istanti non sono stato capace di sloggiare il tenace ragno che era riuscito a trovare una strada tra le pieghe dei miei abiti e sono stato costretto a piroettare spasmodicamente verso un ruscello e a pesticciarci dentro per 45 minuti. Poco dopo i soldati di Arroyo hanno aperto il fuoco. Noi abbiamo combattuto gagliardamente, malgrado l'attacco di sorpresa abbia provocato una certa disorganizzazione, tanto che per i primi 10 minuti i nostri uomini si sono sparati l'uno contro l'altro. Vargas è scampato per un pelo alla catastrofe, quando una bomba a mano è caduta sui suoi piedi. Egli mi ha ordinato di buttarmici sopra col corpo, consapevole di essere indispensabile alla nostra causa. E io l'ho fatto. Per un caso provvidenziale la bomba non è esplosa, ed ho potuto allontanarmi indenne, eccettuati un lieve tic nervoso e l'incapacità di dormire la notte senza che qualcuno mi tenga la mano. Questo era ancora Viva Vargas, da Saperla Lunga di Woody Allen. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 42, volume numero 1. Indice, Goon Moon, The Most Serene Republic, Creme, The Twilight Said, Jessica Hoop, Rufus Wainwright, Uncle con gli Autolooks, John Van der Slice, Oh Death, Scouting for Girls, The Forms. Giulio Cappardoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.